Insomma, abbracciando il ministero del vescovo di Vittorio Veneto e passandone al vaglio la produzione pastorale, si finisce per prendere atto di uno stile che ha una sua cifra originale, se raffrontato, ad esempio, a quello di altri confratelli, veneti e non. Tale cifra sta, come si è appurato, in una sensibilità pastorale spiccata, oltre che nell'attitudine a non evitare le principali questioni chiave, che alla fine degli anni Sessanta erano oggetto di lacerazioni nelle comunità ecclesiali, come nella società, tanto a Vittorio Veneto quanto in molte altre parti d'Italia. E al di là delle singole prese di posizione richiamate, il dato emergente è la costante e consapevole volontà di ricerca di quella che si potrebbe definire una sorta di metriotes pastorale, ovvero la virtuosa e paziente mediazione tra la soda dottrina tradizionale e le nuove esigenze poste dalla realtà socio-ecclesiale italiana di quegli anni, considerata da Luciani la via maestra per affrontare le sfide del suo tempo, ha sintetizzato Marcello Malpensa. E qui questo concetto greco evocato, metriotes, rinvia, applicato a Luciani, a parole come misura o equilibrio, prudenza o moderazione. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Marco Roncalli, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, edizioni San Paolo, 736 pagine, 34 euro. L'East End di Londra è ormai diventato a tutti gli effetti un quartiere islamico, dove di notte girano le ronde di vigilantes, pronti a combattere alcol, minigonne, omosessuali e tutto quello che ritengono contrario al Corano. C'è un ragazzino con le gote rosse da inglese e una lattina di birra in mano. Porta scarpe da ginnastica sgargianti, un giubbetto blu da cui spenzola il cappuccio grigio della felpa, divisa d'ordinanza degli adolescenti. Gli si avvicina un uomo robusto, pantaloni cachi e giubbotto scuro, il volto coperto dal cappuccio. Gli strappa la lattina di mano e la getta a terra. Puntando il dito contro il giovane fa: «Qui l'alcol è vietato, ragazzo. Questa è una zona musulmana. Noi pattugliamo il nostro territorio. Riyadh, Teheran, Kabul. Troppo facile». Il filmato collocato sul web che ritraeva la scena è stato girato nell'East End di Londra, Londonistan, come la chiamano i critici della tolleranza britannica. I giustizieri della notte islamica agiscono soprattutto nel quartiere di Tower Hamlets, dove a nord vive una popolosa comunità del Bangladesh. La polizia sospetta che i vigilantes provengano da uno dei molti rivoli creatisi dopo lo scioglimento di Al-Muajirun, un gruppo legato al terrorismo islamista. Sul canale di YouTube, dove pubblicavano le loro bravate, logo Sharia, il futuro del Regno Unito, lo stesso di Al-Muajirun, gli energumeni della polizia morale descrivono così la loro missione. Dalle donne che ancheggiano per strada completamente svestite, come bestie senza rispetto per se stesse, ai beoni che vanno in giro con la bottiglia, agli ubriachi che finiscono sotto le macchine, noi faremo del nostro meglio per proibire tutto ciò. Tra le loro imprese, sempre doverosamente digitalizzate su internet, c'è la distruzione di un cartellone pubblicitario di H&M, dove una modella si contorce in lingerie nera, esaltando le proprietà di un reggiseno push-up. In uno spezzone di un altro video, un guardiano della fede incappucciato se la prende con una ragazza in mini short di jeans che passa davanti a un negozio di kebab con il fidanzato. «Non ci si può vestire così in una zona musulmana», dice. Una voce fuori campo aggiunge: «Dobbiamo proibire a questa gente di vestirsi così e passare davanti alle moschee». La donna è allibita, farfuglia: «Questa è la Gran Bretagna, le donne hanno dei diritti». Il quartiere di Tower Hamlets non è nuovo a questi episodi. Nel 2001 fu dichiarato liberato dai gay, da alcuni volantini che si aprivano con le parole del Corano «alzati e ammonisci». Pochi mesi dopo, un altro volantino proclamava la zona «territorio controllato dalla Sharia». Incorniciate in rossi segnali stradali di divieto le principali calamità: gli alcolici, il gioco, la musica e le danze, la prostituzione, intesa in senso molto lato, e la droga. Pare che l'autore fosse Aniem Choudhary, ex avvocato diventato predicatore islamista, appunto uno dei fondatori di Al-Muajirun. Londra è un calderone di etnie e religioni, e certo in questi episodi affiorano le crepe della società multietnica. ma non si deve immaginare il West End come un'Arabia Saudita in miniatura. Come ha detto al Times l'esperto di islamismo Ghaffar Hussein, sono azioni compiute da poche persone, non rappresentano la società musulmana che condivide nella sua maggioranza i valori di tolleranza della Gran Bretagna. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Claudio Gallo, Londra, gli islamisti lanciano ronde contro alcol e minigonne, dalla stampa del 21 gennaio.